This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers. 10 anni dopo, il giorno del ricordo delle vittime dell'11 settembre è carico di una nuova minaccia. L'allarme è scattato da giorni, le autorità americane indicano un pericolo credibile, specifico, ma non confermato. Forse la vendetta dei fedelissimi di Bin Laden, oppure solo un modo per tenere lontano gli spettri di 10 anni fa, quando nel limpido cielo di settembre il terrore salì senza difficoltà a bordo degli aerei di linea, facendoli schiantare contro il World Trade Center di New York, il Pentagono in Pennsylvania. Oh my God! That looks like a second plane. Una paura che misura l'America scaturita dall'11 settembre, spogliata dell'illusione di invulnerabilità in un mondo che ancora annunciava una pace imperiale americana. Oggi è tutto superato, tutto alle spalle di un decennio segnato da guerre senza vittoria e dall'affermazione di nuovi equilibri economici. Ecco allora che l'11 settembre 2001 diventa il giorno tragico e indimenticabile in cui le certezze dell'ora si sono sbriciolate, proprio come le colossali torri negli infiniti interrogativi che ora accompagnano il nostro presente. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.